Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi e ben ritrovati sulle frequenze di radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovani. Sempre Leonardo Maria Pompei è al microfono e vi ricordo sempre brevemente che stiamo all'interno del lungo percorso che ormai da parecchio tempo ci sta accompagnando sui 10 comandamenti e stiamo in questo momento esaminando ancora il sesto comandamento che ci porterà ancora qualche puntata, credo. E la volta scorsa abbiamo cominciato quel gruppo di comandamenti che rientra, diciamo, nel genere dei cosiddetti atti contro natura, approfondendo in maniera particolare, lo ricorderete che state all'ascolto, il tema attuale e per certi aspetti scottante dell'omosessualità. Oggi chiaramente con l'aiuto del Signore proseguiremo ulteriormente andando ad affrontare un altro argomento purtroppo abbastanza attuale, similmente spinoso e scabroso, che è quello di una vera e propria piaga sociale, ecco, che ha rovinato e rovina non poche persone e purtroppo anche non poche famiglie, che è quella della pornografia. La pornografia possiamo indubbiamente dire che è una delle piaghe più purulente che sono sorte dalle materie, scusate, dalle macerie di una civiltà sciagurata che ha scelto, per certi aspetti sembra tra l'altro una scelta fatta ad occhi pienamente aperti, quindi senza neanche la circostanza attenuante dell'ignoranza. Ha scelto, dicevo, di rinnegare 2000 anni di vita cristiana, rinnovando, questa è la cosa a mio avviso più preoccupante, il grido luciferino di Isaiana memoria, profeta Isaia, capitolo 14, che è il sinistro non serviam. Non lo servirò. Non lo servirò, inteso, diciamo, con una sfumatura ottativo-volontaristica, quindi non soltanto non lo servirò perché ci saranno delle difficoltà o perché non ci riuscirò a servirlo, ma non lo servirò perché scelgo di non volerlo servire e di voler agire esattamente agli antipodi, di ciò che il cristianesimo insegna. Penso di aver già accennato in altre sedi, trattando di questo scabroso argomento, non mi ricordo se l'ho fatto durante questo ciclo di catechesi, su altri interventi, Radio Buon Consiglio, o in qualche articolo o in qualche altra radio, non mi ricordo ragazzi, per cui mi perdonerete se dovessi ripetermi, però noi dobbiamo pensare che il tema della purezza, della vera econdia e della modestia dei costumi è stato, come dire, un cavallo di battaglia dirompente del cristianesimo, specialmente per realizzare il suo pieno trionfo sul mondo del paganesimo. Questo è indubbio ed è pluriattestato da fonti e testimonianze di ogni genere. Nei primi secoli, ragazzi, i cristiani non esistevano ancora le diversificazioni, diciamo così, di status che ci sono oggi nella Chiesa, anche se questo è un altro argomento, come dire, caldo, che meriterebbe trattazione a parte. Quindi non c'erano in giro frati, suore, monaci, quindi, e anche sembra, ecco, i membri del clero per un certo periodo di tempo avevano qualche segno distintivo, ecco, ma non certamente quel segno distintivo come l'abito ecclesiastico che è comparso relativamente presto nel corso della storia della Chiesa, ma non subito. Ecco, lo vediamo anche dalle fonti, no? Quindi noi possiamo leggere un testo, per esempio, famosissimo dei primi secoli, che è la celeberrima lettera di Ogneto, che praticamente mostra ai cristiani che per certi aspetti sono indistinguibili dagli altri membri della società civile di allora, che era prevalentemente pagana. Quindi fanno gli stessi lavori, vestono, diciamo così, gli stessi abiti, mangiano le stesse cose, frequentano alcuni degli stessi luoghi, ecco, però su alcune cose si distinguono. Vestono gli stessi abiti, ma non vestono allo stesso modo. Frequentano alcuni luoghi, ma non li frequentano tutti. Per esempio, non andavano a vedere gli spettacoli dei gladiatori, non andavano. Non lo so, a vedere gli spettacoli, le commedie oscene che c'erano già nei tempi pagani, non erano grandi frequentatori delle terme, e non andavano, per esempio, i cristiani e le cristiane in giro nudi, assolutamente. Costume ed usanza, come è noto, tipicamente pagana, e soprattutto su questo, ecco, l'unica, come dire, distinzione che apparve in maniera molto precoce, e ne dà già testimonianza la prima lettera ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi di San Paolo, capitolo 7. Furono due categorie distinte di persone, distinte come persone. La prima delle due presto ebbe anche un segno distintivo esteriore, l'unico che c'era, che erano le vergini e le vedove, che costituivano due categorie proprie e che erano appunto donne che sceglievano di vivere la castità o come alternativa al matrimonio, quindi una sorta di consacrazione laica, e vi ripeto, queste donne erano allora riconosciute e distinte attraverso un velo rosso che si chiamava il flammeum e che portavano sempre durante le funzioni liturgiche, e non ricordo adesso esattamente, non vorrei dire una sciocchezza, se anche al di fuori della liturgia. E l'altro gruppo erano le vedove consacrate, cioè coloro che una volta che il marito fosse passato a miglior vita, sceglievano come forma però di consacrazione al Signore, di atto di amore verso di lui e di servizio esclusivo nei suoi confronti, di non contrarre nuove nozze, quindi di non passare a nuovo matrimonio, come in teoria San Paolo stesso spiega che sarebbe ed è anche adesso lecito, ecco. Sulla scorta del fatto che la Chiesa e i maestri e i dottori e la dottrina della Chiesa ha sempre distinto tra ciò che è lecito, quindi che si può fare senza commettere peccato, e ciò che è migliore. Con non risposarsi, secondo San Paolo, è scelta migliore piuttosto che risposarsi, fermo restando la liceità di un nuovo matrimonio se uno dei due coniugi muore. Ma su questo, se uno legge gli Atti dei Martiri, continuo per far comprendere l'importanza, c'era una forma di tortura e di martirio, diciamo nel martirio, che veniva effettuato contro le donne e in particolare le fanciulle, le ragazze, non proprio le fanciulle, cioè le ragazze, diciamo, appena in fiore. Durante i giochi che venivano fatti nelle arene, dove, come tutti quanti sappiamo, purtroppo tanti nostri fratelli e tante le nostre sorelle sono finiti in bocca alle fauci delle belve feroci. Ecco, io quest'anno, ragazzi cari, vi confesso che un sabato ho portato i ragazzi del Post-Cresima al Bioparco a Roma e ho guardato con estrema attenzione i leoni, le tigri, e che c'era il leopardo e tutti questi animali qui. Vi assicuro che vederli dal vivo a non grande distanza è uno spettacolo. Vabbè, si vedono anche al circo, si vedono, no? Però immaginare di essere da soli, lasciati in balia di questi gattini un po' cresciutelli e molto affamati, A pensare, insomma, che ti si gettano addosso con la stazza che c'hanno e con la mola che c'hanno e con gli artigli che c'hanno e con le zanne che c'hanno e ti sbrandellano vivo, e a me immediatamente è corso, sarà deformazione professionale, il pensiero a questi grandi martiri che hanno lasciato la vita diventando pasto per le belve. Allora, quando c'erano queste ragazzine, prima di servire il pranzo o la merenda o la colazione o la cena a seconda dell'orario a questi nostri gattini un po' cresciutelli, c'era un altro spettacolino. Ecco, ordivano la pantomima, quindi la presa in giro ironica e oscena del peccato originale. Cosa è successo nel peccato originale? Ah, dunque, innanzitutto Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden andavano in giro nudi, dice la Bibbia, di questi pazzi esaltati che sono i cristiani, giusto? Ecco, allora ripristiniamo lo status quo. E quindi alcune signorine appena in fiore venivano spogliate completamente nude. E poi legate ad una specie di impalamento, insomma, di colonna che veniva messa nell'arena. Poi dice: chi è stato a tentare Eva? Ah, è stato il serpente. Ah, il serpente con la mela. Ecco, quindi immaginate queste povere ragazzine completamente denudate, contro cui venivano liberati dei serpenti che gli si avvoltolavano intorno. A volte le mordevano perché erano simbolo del tentatore. Allora, quelle che sopravvivevano alla pantomima del peccato originale, poi andavano a riempire la pancia di qualche gattino cresciuto. Qualcun'altra veniva strangolata tra le spire dei serpenti e qualcun'altra veniva morsa da qualcuno di questi serpenti fortemente velenosi e moriva morta per il veleno dopo essere stata esposta al pubblico ludibrio. Ed era fatto proprio a sfregio della verecondia dei cristiani. Tanto è vero che qualche testimonianza sporadica ci è arrivata di queste fanciulle, delle superstiti, cioè di quelle che superavano non si sa come indenni la prova del serpente, e quindi stavano in attesa di essere mandate a fare piena la pancia di qualche felino cresciutello, e dicono. Ed esprimono agli altri martiri tutta la loro estrema vergogna, che dice: avremmo preferito 10.000 volte essere sbranate in diretta dalle zanne dei leoni o delle pantere o dei leopardi o delle tigri, piuttosto che essere esposte alla vista di uomini lascivi in questo modo osceno. Questi erano i nostri antenati. Io vivo a Latina, tante volte ho avuto modo di parlare di Santa Maria Goretti, martire della purezza. Proprio oggi mi sono arrivati degli ulteriori commenti dal mio canale YouTube su alcuni interventi che ho fatto su Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti è martire della purezza e della modestia. Lei non soltanto è morta rifiutandosi di commettere un atto impuro. A proposito di pornografia, stiamo introducendo il tema della pornografia. Ecco, per introdurre il tema della pornografia e per far comprendere la portata assolutamente drammatica e dirompente e devastante che ha avuto questa piaga, ripeto, piaga sociale, bisogna comprendere come i valori contrari erano, non dico cari, erano proprio assolutamente parte, come dire, quasi fisica del patrimonio cristiano, cioè parte quasi fisica, come dire, intoccabile, indiscutibile, inviolabile, incontestabile, in tutto, d'accordo? E questo per far capire a quale stato sciagurato, disgraziato, deprecabile, disastro, siamo arrivati attualmente, che ci deve far mettere, per chi ce le ha, le mani nei capelli, per chi ce li ha. Ecco, quindi questa era la storia, dei primissimi cristiani. Santa Maria Goretti, che vi stavo accennando, non è morta soltanto dicendo a Alessandro Serenelli: io non posso stare con te perché questa cosa non si fa, e stai attento che se la fai commetti peccato, peccato grave, peccato mortale, e te ne vai all'inferno. Non c'è solo questo. C'è quello che ha raccontato il suo assassino stesso, che è stato presente al momento della canonizzazione di Marietta nel 1950, era seduto a fianco alla madre. Pensate, uniti e saluti vicino, la madre della vittima e l'assassino della vittima a fianco, che ha raccontato che quando la colpiva con il punteruolo, si è presa 14 punteruolate, una bambina di neanche 12 anni, perché aveva 12 anni non compiuti ancora, lei non si stava a parare i colpi con le braccia, come farebbe per istinto naturale qualunque persona, no? Se c'è qualcuno che ti aggredisce, avete visto quando fanno le autopsie di qualche omicidio, è ovvio che come dire, le prime zone del corpo dove si notano le ferite sono le braccia, perché uno, per quanto possibile, cerca di parare i colpi, cerca di coprirsi, piuttosto che prendersi una coltellata sul cuore o sullo stomaco, è meglio prendersela sul braccio. Noi abbiamo questo, che è una cosa istintiva, non è una cosa che uno si mette a pensare: adesso, anziché prendere una coltellata al cuore, mi paro. Lo facciamo in maniera automatica. Ma l'automatismo che è partito da questa fanciulla non è stato questo, è stato quello di prendersi la gonna e di tenersela bassa, cosa che, nonostante stesse in preda a furia satanica omicida, poi Alessandro l'ha raccontato, ha raccontato sconvolto: io non ho mai visto questa ragazzina parare un solo colpo, stava soltanto preoccupata di tirarsi e di mantenersi giù le vesti, cioè di non essere vista nuda. Punto. Punto. Ora, il mare di fango a cui stiamo assistendo dal 1972, ecco, purtroppo la prima celebre pellicola di cui non faccio il nome, sia perché mi urta soltanto pensare che ci sia, sia per non fare indebite pubblicità, risale al 1972 ed è diventato un cult, diciamo così, per gli appassionati di questo vomitevole e osceno genere cinematografico, i cui protagonisti, pensassero anche male quelli che mi ascoltano, stiano tranquilli che se ne vanno stradritti all'inferno, ma straproprio drittissimi. E qualora si dovessero pentire di quello che hanno fatto, se facciano un segno della croce, se rinchiudano dentro qualche monastero, perché altrimenti il purgatorio che li aspetta sarà lungo, penoso e doloroso, perché i danni fatti da questa gente sono di una proporzione assolutamente incalcolabile, d'accordo? Sono pubblici scandali questi qui, questi non sono soltanto peccati gravissimi e privati. Quindi, come si è potuti arrivare a tale oscenità? Che è come dire, cioè, chi ha mai visto, vi prego di non farlo, una trasmissione, un film o un programma a contenuto, così lo chiamano, hardcore, rimane assolutamente sconvolto, ecco, per il, come dire, per il grado, diciamo, che è come quando uno vede, non lo so, un film dell'orrore di alcuni di questi registi che sembra ci abbiano il culto del sangue, no? Adesso non voglio parlare male di nessuno e non voglio mettere in cattivo nessuno, però per farci capire, cioè, se uno si vede un film di Dario Argento, è diverso da vedersi un thriller anche proprio che ti toglie il fiato di Hitchcock. Hitchcock ti fa stare sulle spine, ti fa stare a fiato sospeso, ma è tu capace che in tutto il film non vedi una goccia di sangue, una. Dario Argento ti fa stare col fiato sospeso, ma ti fa pure davanti di quei pugni nello stomaco, perché tu vedi dei fiumi di sangue che scorrono e vedi, come dire, il sadismo in azione. Con dovizia e con abbondanza di piccoli particolari, no, di piccoli, di agghiaccianti particolari. Io vi parlo per esperienza, perché a me con l'inganno mi portarono quando ero piccolino, cioè avevo 12 anni e mezzo, facevo la terza media a vedere un film di Dario Argento. Io, per me, è stato uno dei traumi più grandi che ho mai ricevuto in vita mia. Me lo ricordo come se fosse ieri. ma probabilmente una cosa agghiacciante, d'accordo? Una cosa di questo genere. La stessa cosa vale per la pornografia, perché la pornografia, ok, chiaramente è la degenerazione estrema, cioè non è come quando ti vedi, come dire, una storia d'amore tipo che era negli anni 70, avevano fatto Love Story, adesso non vorrei che Love Story, io non me la ricordo più, fosse a contenuto immorale, però immaginiamo una commedia romantica smielata, d'accordo? In confronto ad una degenerazione di questo tipo, no? Estrema, insomma, che va proprio a violare, a violentare, a esporre, a sondare, insomma, delle cose che sono assolutamente inimmaginabili. E lo sapete qual è la cosa grave oggi, no? Che quando io ero piccolino esisteva soltanto la televisione. Ecco, anzi, la televisione, io sì, la prima televisione a colori, io mi ricordo benissimo, si vide nel 78, ma il discorso della televisione è questo, che c'era la televisione, non c'era nient'altro. Quindi io ricordo benissimo che quando ero piccolino, quando cominciarono a diffondersi, che all'inizio non c'erano, c'erano soltanto i canali Rai, io appartengo alla generazione che ancora ricorda queste cose, e i programmi cominciavano al mattino e finivano la sera dopo le 10:30, che c'era tutta quanta una sigla con tutte queste nuvole, con tutte quante queste specie di antenne che scendevano. E velocemente cominciarono a diffondersi le prime TV private, spazzatura, e contemporaneamente anche la Rai si adeguò con un target di programmazione non stop. E allora cominciarono ad apparire a tardissimo orario dei contenuti in televisione a luci rosse. Senza decoder, senza possibilità come c'è oggi nella televisione di fare l'abbonamento, che se lo vuoi vedere lo vedi e se no è oscurato, eccetera. Quindi era portata di tutti, compresi i bambini. Ecco, e ci fu un intervento, io non ricordo benissimo, legislativo, che proibì in maniera tassativa anche alle 3 di notte di pubblicare, di mandare in onda materiali a luci rosse. Non poteva essere mandato in onda in nessuna televisione, né pubblica né privata, con conseguenze penali. Non lo so se rifarebbero oggi una cosa di questo genere. Comunque, adesso lasciamo perdere. Ma il problema di oggi è che tutta questa roba è a portata di un click. Oggi c'è internet, ragazzi, c'è la rete. Cioè, la quantità di immondizia che gira su questa materia è assolutamente incalcolabile. Dovunque, dovunque e dovunque. Sulla rete, anche su YouTube, anche su iTunes, basta che tu metti la scrittina explicit, cioè a contenuto esplicito, e questa cosa, certamente le grandi, come dire, aziende di diffusione di questa roba dicono: guarda che c'è scritto, è contenuto esplicito, quindi se te lo vai a vedere sono affari tuoi, perché sei tu che ti inguai in roba di questo genere. Ma c'è talmente tanta diffusione, e i grandi attori chiaramente, come dire, sommamente ironica, cioè, quindi i grandi sporcaccioni, direbbe Padre Pio, e sporcaccione, che fanno queste cose, e io questo lo so per certo, perché una volta, quando stava male mia madre, sciaguratamente mi imbattei in una trasmissione che aveva come ospite una soggetta di questo genere. Vanno tranquillamente in giro per trasmissioni e talk show come persone normalissime, che fanno un lavoro come tutti gli altri, e che si divertono tantissimo a fare quel lavoro e che fanno divertire le persone facendo un lavoro che è uguale a tutti gli altri, senza nessun tipo di problema. E quindi oggi questo è diventato veramente come dire, una marea ed una ondata di fango assolutamente incontrollabile, d'accordo? E tu dici: ma questa roba ha un'utenza abbastanza moderata? Non credo proprio, ragazzi e ragazze carissimi, anche perché poi fanno tutti i farisei, tutti quanti i farisei, che si stracciano le vesti quando sentono parlare di pedofilia o cose di questo genere, no? Ma se poi uno va a vedere i dati, quelli che riesce a trovare la polizia, postale e non postale, circa l'uso e l'abuso di questa roba, i dati sono agghiaccianti, sono. Quindi è possibile che tutti gli stracciatori di veste Sono tutti quanti immuni da questa cosa? O c'è qualcuno che si straccia le vesti in pubblico e poi in privato, quando nessuno lo vede, va a farsi qualche click e va a farsi un giro con questa robaccia qui? Punto interrogativo. Quindi c'è stata una progressiva, come dire, campagna partita, come dire, dalle prime pellicole, come dire, un po' osé, diciamo qualche piccola scena osé, qualche gonna un pochino più corta di alcuni film del dopoguerra, poi si è passati alle provocazioni dei nascenti astri, tra virgolette, della musica rock, che sbandieravano o con comportamenti o con parole e testi un certo libertinaggio sessuale. E poi sono comparse le prime pellicole a contenuto erotico, non ancora hardcore, e poi è comparsa la vera e propria pornografia con questa data simbolica che da allora praticamente sono stati rotti tutti quanti gli argini. Ora voi dovete sapere, ragazzi carissimi, che il nudismo, a quanto sembra, io lessi a suo tempo qualcosa, è stata un'operazione studiata a tavolino dai nemici di Dio e della Chiesa per corrompere le società occidentali ad antiche radici cristiane. E non ci vuole tanto a studiarla a tavolino, perché se abbiamo detto, stiamo parlando da tanto tempo, del sesto comandamento, che il peccato che porta più anime all'inferno è il peccato contro il sesto comandamento, e che il peccato contro il sesto comandamento deve essere in qualche modo provocato, è evidente che far dilagare il nudismo e far dilagare la pornografia vuol dire far dilagare anzitutto dei peccati che sono in se stessi dei peccati, perché si pecca quando poi avremo anche il nono comandamento, non soltanto con gli atti, ma si pecca anche con gli occhi, ma vuol dire instaurare un clima di provocazione continua e quindi far degradare gradualmente l'uomo ad un livello di vita che rasenta il bestiale, se non superandolo. Perché, come l'ho detto la volta scorsa, a me non consta, se non in rarissimissime eccezioni, che ci siano, e ve l'ho già detto che sono lo 0,00000000001%, quindi di scherzi della natura con unioni anomale tra membri dello stesso sesso, così non mi consta assolutamente che in natura ci siano delle forme di promiscuità sessuale, come dire, a carattere pornografico o kamasutrico, che prevedano delle forme, diciamo così, di accoppiamento plurimo e selvaggio tra membri dello stesso gruppo. A me questo sinceramente non consta. Poi potrebbe anche essere vero, però quindi questo per dire che attraverso questa follia e questa, come dire, diffusione capillare di questa immondizia, l'uomo si sta degradando al di sotto degli animali, non soltanto li sta abbrutendo, ma sta andando a un livello ancora, se fosse possibile, ulteriormente più basso. Facciamo una piccola pausa per recitare, come sempre, alle 17, insieme l'Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Riprendiamo. E per dare ulteriormente l'idea, ecco, di quanto questo fenomeno oggi stia diventando davvero una fonte disintegrante, e io potrei raccontare, e evito di farlo, delle esperienze personali vere che ho riscontrato con ragazzini, sottolineo ragazzini, alcuni di 10, altri di 12 o 13 anni, che già gravissimamente coinvolti nel giro dei video porno. Vi prego di credermi, io sono un sacerdote e non posso dire le bugie, non le racconto apposta perché non voglio assolutamente che in nessun modo si possa neanche lontanamente, neanche da parte di chi non potrebbe mai arrivarci, sospettare qualcosa o su qualcuno. Posso però dire delle cose che si sono, di cui si ha cognizione anche perché sono state rese pubbliche attraverso dei filmati o dei sondaggi televisivi. Ecco, tempo fa uscì una trasmissione, dovrebbe essere stata caricata sul mio canale YouTube, nonostante la, come dire, non perfetta, come dire, non è stato il fatto che la fonte non sia da me affatto in nessun modo sottoscritta, sia per la sostanza sia per le modalità con cui operano, perché la fonte di questo filmato sono le Iene, le cui modalità di azione e professionali io personalmente non condivido, però a volte, come sapete, anche ambienti o persone che sembra che almeno nello stile e nei modi non siano proprio da presentare come esempi di una perfetta incarnazione del cristianesimo, però fanno comunque un servizio in qualche modo. Realizzarono una parte di una loro puntata sui rischi e i pericoli di internet e intervistarono, chiaramente occultandone i volti e la personalità, dei ragazzini di 10, 11, 12, 13, 14 anni. Allora, domanda, che uso fai di internet? Facebook, Messenger, il filmato è un pochino datato, perché adesso Messenger è diventato vecchio come il cucco, come penso che molti ragazzi in ascolto sappiano. Comunque, Facebook, Messenger e siti porno. Basta. E sui siti porno sapevano tutto. Perché in diretta, mentre stavano facendo la trasmissione, a uno di questi intervistati gli è arrivata una mail, fa guardati l'ultimo video su link, indirizzo web, che ovviamente io non ripeto in questa sede, basta un clic e ti vedi l'ultima trovata di. I ragazzini adesso, cosa io, vabbè, sarò come sempre obsoleto e anacronistico, assurda per quanto mi riguarda, a 11-12 anni girano con gli smartphone o con i tablet, quindi con l'iPad, con l'iPhone, col Samsung Galaxy 2, 3, 4, 5, 6, che ancora non esiste. Chiaramente questi smartphone, come penso che tutti sappiano, non hanno ragione di esistere se non hanno una scheda con un contratto che ti manda online e hanno comunque ancora di più gli Android per la verità, perché i dispositivi Apple sono sotto questo punto di vista bloccati, la possibilità di interscambiarsi contenuti multimediali attraverso il Bluetooth o il Wi-Fi. La mia esperienza mi dice che questo, non faccio riferimento, è una cosa pericolosissima. Perché cominciano chiaramente a proliferare e a diffondersi queste cose. Io dico, possibile che un genitore non ci arrivi a una cosa di questo genere? Io dico, è mai possibile che genitori, anche non esperti, cosa che oggi costituisce colpa, perché un genitore non può, secondo me, ignorare rischi e anche potenzialità del mondo multimediale e della rete? Perché i ragazzi oggi vivono immersi in questo. A scuola studiano con internet, i professori fanno i gruppi con le classi su Facebook, alcune cose se le trasmettono tramite Skype, cioè, per cui tu non puoi prendere un ragazzino e metterlo completamente fuori da questo mondo, ma non puoi neanche gettarcelo così. Io su Facebook ho visto, ma si vedono tutti i giorni, profili di ragazzine. Fortuna che su Facebook dice che non si possono pubblicare le foto porno, ma con delle fotografie che sono che non si possono guardare, che sono delle provocazioni continue, c'è cioè un'esposizione, un'esibizione, una messa in mostra, provocante. Cioè, d'accordo, perché che tu hai un centimetro quadrato, scusatemi, di stoffa che ti copre lo strumento attraverso cui si allattano i bambini, d'accordo, con un centimetro quadrato di stoffa, però sta in una posizione tutta quanta particolare, che sta in, cioè, mi spieghi che senso, cioè, per certi aspetti è più oscena, se mi passate una cosa, un'immagine di questo genere, perché il ti vedo e non ti vedo, che non quella brutalmente proprio allo stato adamitico. E questo oggi è una cosa continua. Cioè, le ragazzine intervistate da questa trasmissione delle Iene andavano a dire che loro concedevano la richiesta di amicizia e quando vedevano nelle foto dei profili dei maschietti dei belli addominali a forma di tartaruga. Ragazzine di 12, 13, 14 anni. Adesso io chiedo a qualcuno, fate una bella telefonata, 0825 444 391, come si fa a fermare questo tipo di fenomeno che ormai è universale? Universale. Universale. Guardate come vanno in giro, sti giorni si muore di caldo, certamente che si muore di caldo, figuratevi quanto è moro di caldo io. Perdonatemi adesso se mi ci metto in mezzo, che ce la veste da dare pure d'estate, figuriamoci quanto moro di caldo io. Ma il fatto che ci si muore, che si muoia di caldo, è possibile, io dico, che in giro si debba vedere tutto l'immondezzaio continuo che si vede, cioè che le donne stanno tutte nude, perché il minimo che portano sono bretelline e minigonna, quando non portano i toppini e minigonna, cioè stiamo andando sempre più... Qualcuno mi ha detto, e me l'ha confermato anche qualche persona che lavora nel mondo della moda e dell'estetica, che non sanno cos'altro inventarsi, si sono inventati adesso per l'estate dei costumi femminili, vi ripeto, non so se è vero, che sono così sgambati e così ristretti che volutamente lasciano scoperto parte del pube femminile. Ma dico, sì, è possibile una cosa di questo genere? Cioè, è possibile che le spiagge siano ridotte nel modo in cui sono ridotte? È possibile che io che faccio il prete, scusate se faccio, io sono 20 anni quasi che non metto piede al mare. A me il mare piaceva tantissimo, mi piacerebbe, ve lo confesso, come non è che mi dispiacerebbe se un giorno d'estate, non avendo nessuna impellenza pastorale, non essendoci nessun funerale, nessun malato da visitare, nessuna estrema unzione da dare, nessuna confessione da fare, nessun colloquio di direzione spirituale da fare, se ci avessi un'ora potessi andare a fare un bagno. Ma come faccio ad andare in una spiaggia io? A parte il fatto che non è opportuno che un consacrato esponga, a mio avviso, se stesso. Però supponiamo che così potesse fare, ma io come faccio ad andare lì dentro? Cioè devo farmi accompagnare bendato per mano, perché non ti può girare da nessuna parte. Cioè, perché lì anche lì sulla spiaggia siamo passati dai costumi delle nostre bisnonne, che non erano neanche costumi, erano, diciamo, i vestitini con cui oggi vanno in giro, perché erano dei toppettini e dei vestitini che coprivano, diciamo, fino a mezza gamba, quelli là delle nostre bisnonne o forse anche delle nostre nonne. Poi abbiamo cominciato e taglia e taglia e taglia a passare al costume intero, e poi al due pezzi, e poi al monopezzi, e poi ai costumi sgambati, e poi a perizoma, e mo adesso a quello lì senza. Adesso cos'altro ci manca? Ci manca che si va sulle spiagge come andava in giro Eva prima del peccato originale. Ci manca, dopo cos'altro ci dovremmo inventare? Più di questo che vuoi fare? Io non voglio fare, cioè, io spero che almeno in questa sede, io non, vi ripeto, non ho affatto, come dire, timore di ironie o di passare come bacchettone o cose di questo genere. A me sinceramente sembra che si siano veramente passati ampiamente tutti i limiti. Io ho visto, purtroppo, perché sono passato davanti e mi tocca, cioè, ho visto sulle strade dalle nostre parti signorine che fanno il mestiere più antico del mondo, cioè guardate che stavano per strada nude, cioè avevano una gonna talmente corta che lasciava esposto parte del posteriore, posteriore che non era coperto da nessun tipo di indumento intimo. Ecco, c'è qualcuno che, vedendo quella cosa, ha ironizzato, un'ironia molto amara e molto sarcastica, però purtroppo drammaticamente vera per certi aspetti, che dice: Don Leonardo, ma ti scandalizzi di queste cose? Ma non hai visto come vanno in giro vestite le donne oggi? Come fa quella a far capire che sta facendo il mestiere più antico del mondo e che non sta aspettando l'autobus? Deve andare oltre quanto vanno le sue colleghe comuni di sesso femminile. Perdonatemi la battuta amara, però non è che sia proprio del tutto fuori del mondo. Cioè, io ricordo una santa madre passata a miglior vita, questo lo posso dire, conosciuta durante il mio ministero pastorale in luogo X, ovviamente educata in un certo modo e che aveva conservato alcuni valori, che l'estate, quando si confessava, piangeva sui peccati delle figlie che andavano in giro, diciamo così, utilizzando mode invereconde. E questa poverina, voi pensate, la mamma, che si permetteva di far notare questa cosa, diceva: Lo sa come mi rispondono, padre? Mi cominciano a dire: Ah, ma e non me rompe che c'ho caldo. E io gli rispondo: C'hai caldo? Ma tu pensi che quando ero giovane io faceva freddo? Ma tu non lo sai, quando ero giovane io dovevo mettere pure le calze pure d'estate? Andate a leggere gli scritti di Padre Pio, che una volta Crionisio Morcaldi gli chiese se poteva andare a casa di una sua amica, vicina di casa, togliendosi le calze da sotto la gonna lunga fino ai piedi. Guarda cosa gli ha risposto Padre Pio: Non t'azzardare, eh! Quindi, figuriamoci. Voi capite come si passa sempre, cioè, da un estremo di questo genere a quello di oggi. Allora, questa rispondeva alle figlie e dice: Ma tu pensi che quando ero giovane io non faceva caldo? Che mi dovevo mettere pure le calze, mi dovevo mettere le maniche lunghe, mica solo per entrare in chiesa, pure per andare in giro? Come la mettiamo sta cosa? In nome del caldo, ammesso e non concesso che sia, ma non è il nome del caldo, no, ragazzi, non è il nome del caldo, perché c'è proprio alimentato dalla pornografia il desiderio di esibirsi, di mostrarsi, di provocare, dettato dalle più male passioni, cioè da quando purtroppo si lascia campo libero, libero sfogo al peggio che c'è dentro di noi. Punto. Ecco. E questo oggi. Allora, che succede questo qui? Una volta si parlava per i fanciulli dell'età dell'innocenza, se ne è parlato anche nella nostra chiesa, anche in momenti formativi del clero, l'età dell'innocenza. Oggi l'età dell'innocenza non esiste più, ragazzi. Perché se un bambino di 4-5 anni c'ha la televisione dentro casa e si vede, tanto per dirne uno, Grande Fratello, l'età dell'innocenza è bella che finita. Anche se in Grande Fratello, io non l'ho mai visto, quindi, però a quello che mi dicono, non ci dovrebbe essere e non c'è materiale hardcore in senso stretto. Però, sempre a quello che mi dicono, è successo 2 o 3 volte che sono state fatte in diretta delle bestemmie, proprio bestemmie, dai protagonisti di questo palcoscenico che sembra tanto divertire gli italiani, no? Che poi se la prendono con chi dice: Ah, questa è TV spazzatura e bisogna mandare in galera chi la fa, vero? Forse, però, se, dato che oggi l'unica legge che conta, oggi sapete tutti quanti, no? È il marketing ed è l'audience ed è lo share, ecco, d'accordo? È lo share, questa volta conta anche in qualche. Può contare anche in qualche ecclesiastico, no? Se tu stai attento al successo che vuoi avere, a quanto ti vogliano bene le persone, tra virgolette, o a quanto ti voglia bene nostro Signore. Ah, il mio share certamente io sarei un suicida se dovessi fare televisione o cose di questo genere, no? Quindi, Tu che cosa offri? Tu offri ciò che sarà consumato al massimo grado possibile per essere il numero uno per quanto riguarda lo share, perché se sei il numero uno, televisione privata, incasserai una caterva di soldi per quanto riguarda la pubblicità, quindi un sacco di utili per quanto riguarda i proprietari, eccetera, eccetera. Perché chi governa oggi, Vangelo di domenica scorsa, l'avidità è il soldo. Quindi il nome del soldo non si guadagna a nessuno, non si guarda in faccia a nessuno. E un bambino sta dinanzi a quello. E io quante volte ho detto ai genitori, dico, ma sapete, dico, televisione di un bambino in camera. Un bambino di 7-8 anni c'ha la televisione in camera, di 9 anni la televisione in camera con tanto di decoder, di satellite e di tutto quello che vuole. Io posso capire, cioè posso capire, non lo capisco. Però può passare che tu dentro la camera gli monti un monitor, d'accordo? Perché se deve giocare qualche volta a tutti i giochetti, a tutte queste diavolerie che c'hanno adesso, tipo PlayStation, tipo non so, la Wii, non so come caspita si chiamano queste cose qui, dice vabbè, se mette dentro la camera e gioca e c'è un monitor in più, ma non la televisione, con la connessione all'antenna, al digitale terrestre, perché anche se sono proibiti i contenuti hardcore in televisione, non serve arrivare all'hardcore per sfociare in ciò che non si deve vedere oggi. Perché stiamo a fa sempre anche qui, no? E ciò a cui ho accennato prima, una volta che uno infrange un certo limite, certo che poi l'hardcore è hardcore, ma anche il softcore, così lo chiamano, è comunque nefasto per quanto riguarda il cuore, la moralità, il cervello e la crescita sana di un fanciullo. Allora, io penso che il compito di un genitore, certamente non puoi mettere un figlio dentro una campana di vetro, perché dovrai educarlo e insegnargli a fuggire il male e a fare il bene, però fino a quando non impara, non cresce, non si sa difendere, tu devi, per quanto possibile, almeno da quelle inutili, proteggerlo dalle occasioni di peccato, no? Cioè l'insegnamento dei classici, di tutti gli asceti, di tutti quanti i maestri di spirito. Ci sono delle occasioni di peccato inevitabile e lì bisogna pregare il Signore che ci doni la grazia per superarle. Per esempio, un ragazzino a scuola comunque ce va. Quindi, se a scuola i ragazzini hanno gli smartphone e se vedono i video porno, tu a quel ragazzino, se succede una cosa del genere, dovrai cercare di dargli una mano e fare in modo che eviti di fare questo, d'accordo? Però che se lo veda una cosa del genere dentro la camera sua di notte, tutte le sere. Questo si può evitare, questo qui, capite? Perché dicono i maestri di spirito che Dio ci preserva dalle occasioni di peccato involontarie, cioè da quelle che è inevitabili, ma non ci dà la grazia per vincere le occasioni di peccato evitabili, che diciamo nell'atto di dolore, propongo con il tuo santo Dio di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni di peccato per quanto è possibile. Quindi, quelle che è possibile fuggire, stiamo alla larga. Allora, purtroppo ragazzi, oggi stiamo in questo mare magnum. Vediamo, cioè, televisione, io la televisione vi confesso non la vedo praticamente mai, vedo qualche notizia, tra l'altro quasi sempre, in forma sintetica. Quello che vedo è che lo faccio per necessità anche pastorali. È qualche bel film che generalmente vedo in visione privata prima di proporlo, perché questo faccio o ai ragazzi o agli adulti, perché ritengo importante, specialmente in questo periodo, dare anche la possibilità, perché sta tra l'altro in questa montagna di film molto edificanti, che non conosce la nome, per esempio su questo tema, se uno vede Fireproof, prova di fuoco che è assolutamente da vedere, vede come un matrimonio si rompe attraverso l'uso della pornografia, perché quel matrimonio entra in crisi quando la moglie scopre che oltre alle difficoltà relazionali gravi tra marito e moglie, il marito passava il tempo al computer a vedersi i siti porno. E vi assicuro che questa storia non è soltanto immaginata nei cinema e non dico altro. Capite? Matrimoni che si sfasciano. Sapete quanti matrimoni sono sfasciati anche attraverso usi balordi di Facebook? Ma non ne parliamo. Adesso non è più possibile vedere niente perché tu devi vedere un varietà. Io mi ricordo i varietà di quando ero piccolo io, che facevamo morire dalle risate, quando c'erano Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, Giorgio Bracardi che ti faceva morire con tutti quanti i personaggi e le imitazioni che faceva. Certo, ogni tanto c'era qualche vallettina, ma vallettina rispetto a quelle che girano adesso era vestita come un'educanda del 1200, insomma, no? Ma cioè, adesso in qualunque varietà tu apri ci deve essere la velina o la similvelina che sta praticamente conciata in maniera che non si può guardare. Non è che dici, sai, chiudo un occhio, sta leggermente procace, sta leggermente un po' troppo spinta. No, è proprio inguardabile. Quindi c'è una continua esposizione provocante, immorale. Di corpi statuari, tra l'altro, al pubblico spettacolo. Voi sapete quante ragazzine a causa di questo stanno rischiando, stanno camminando sull'orlo dell'anoressia? Tante. Perché se l'immagine che è proposta sempre è sempre quella della persona assolutamente, come dire, con le misure standard, con la pancia assolutamente liscia, con i glutei formati in un certo modo, con le altre parti in un altro modo, e che debbono essere assolutamente ostentate perché la donna non c'ha altro che da far vedere a quanto sembra. E poi fanno le rivoluzioni femministe, che le donne sono intelligenti, che devono andare, ma se tu proponi un'immagine di donna di questo genere, come qualche persona accorta dall'altro dice, che cosa stai dicendo alle persone? Che la donna c'ha questo da offrire, quando non è assolutamente vero, che la donna è una delle più grandi, dei più grandi prodigi che Dio ha creato, la creatura più grande che esiste è una donna, si chiama Maria Santissima ed è la Madonna. Ma la Madonna certamente non dà a fare queste robe qui, no? La donna c'ha un cuore straordinario, c'ha un'intelligenza straordinaria per certi aspetti, c'ha una capacità di operare, di curare, di interagire, assolutamente straordinario per certi aspetti all'uomo. Ecco. E non va, come dire, degradata o abbassata in questo modo. Ecco. Noi sappiamo, per esempio, sappiamo che Padre Pio è particolarmente caro all'istituto dalle cui stazioni radio stiamo trasmettendo. Padre Pio era severissimo con chi soltanto con chi faceva in qualche modo, e pensate ai suoi tempi, il livello molto più basso che c'era rispetto ad oggi, diffusione di materiale, diciamo così, osceno, ma anche con coloro che, anche in maniera minima e accidentale, vi cooperassero. Lui diceva che anche l'operaio che ha messo un chiodo sul set, dove si deve realizzare anche solo una fotografia oscena, la pagherà davanti al Padre Eterno. Questo lui diceva. E che insomma ci avesse tutti i torti, io non credo. Io purtroppo noto, in questa come in altre realtà, una situazione che umanamente parlando scusate, non esiterei di definire disperata, perché sembra assolutamente impossibile tornare indietro. Allora, che cosa facciamo? Punto interrogativo. Poche ed essenziali cose, ecco, secondo me. Numero uno, occorre cominciare a fare dei gesti di dissociazione dinanzi ad alcune cose, anche risoluti. Numero due, tutti i papi lo stanno dicendo in continuazione, lo diceva Giovanni Paolo II, lo diceva Benedetto XVI, lo dice anche Francesco ai giovani, andate controcorrente, andate controcorrente, sapete, tu so cosa sia controcorrente, non soltanto nella castità e nel non commettere gli atti impuri, ma anche nel come ci si concia, no? Anche i giovanotti, a me non piace tanto, sinceramente, vedere, certo sono contento che vadano milioni di giovani alla giornata mondiale della gioventù, ma che vadano tutte quante queste ragazzine a farsi la comunione in pantaloncini rasenti, glutei e canottiera, nonostante che sia certamente un ambiente, ma è indispensabile andare in pantaloncini rasenti, glutei e in canottiera a farsi la comunione, ragazzi cari? Cioè, ci vuole tanto a capire che non è quello un modo consono per presentarsi davanti a Domine Dio, anche se uno sta in una spianata, anche se uno sta in una spiaggia di voti di Copacabana, anche se uno ha dormito sui sacchi a piedi. Sono andato al Giornale Mondiale della Gioventù, mica una volta sola. Mi ricordo se sono andato a 2 o 3 giornate mondiali della gioventù quando ero giovane. Non è indispensabile partecipare ad una messa, anche quelle. Dice, ancora ricominciamo con fa caldo, ma se tu ti metti una maglietta a maniche corte e un paio di Bermuda, non dico che devi andare vestito come le musulmane sorelle, per carità, che se no poi arabe che stanno sul Mar Morto, che hanno le gonne fino ai piedi, le maniche lunghe fino davanti al polso e la testa coperta completamente. Ma un minimo, cioè un minimo, possibile che non si riesce neanche a questo qua, a capire neanche questo qui, o che vanno alle pubbliche udienze dal Papa lo stesso in questo modo, cioè che non si riesce un attimo a capire. Padre Pio, se vedeva la manica corta, diceva di segare le braccia. Io penso che oggi la manica corta possa essere, come dire, tutto tollerata, ma non andiamo oltre sta manica corta, perché se andiamo oltre sta manica corta cominciamo poi a trasbordare verso il fango, no? Cioè verso l'ostentazione. Quindi io penso che bisogna avere il coraggio, e anche se qualcuno poi comincia a fare qualche presa in giro, chi c'ha poi il coraggio? Io questo l'ho sempre detto anche qui, io penso che tutti debbano essere coraggiosi nel prendere le distanze da alcune cose e da almeno diffondere un clima di sobrietà. Si parla tanto di sobrietà su tante cose, non vogliamo parlarne neanche su questo. Sobrietà, d'accordo. Non dico di andare. Ecco, poi se qualcuno ha il coraggio, specialmente tra le signorine, si possono anche compiere dei gesti forti, cioè fermo restando. A mio avviso, specialmente per chi vive nel mondo, la cura della bellezza, non della vanità, ma della bellezza, del decoro e dell'ordine e della modestia. Quindi vestendosi bene, ci si può anche però vestire in una maniera che parli in maniera significativa, che parli in modo forte e significativo. Cioè io mi dissocio dalla cultura del nudismo e abbraccio uno stile. Altre volte che ho già parlato, andate a visitare, dato che tutti usate Facebook, la pagina Facebook che si chiama Femminina, Modesta e Elegante, e andate a vedere come una donna, senza rinunciare alla propria femminilità, alla propria bellezza, può vestirsi veramente in maniera bella e conciarsi in maniera davvero gradevole e accattivante, ma sana e santa, dissociandosi da tutto quanto questo clima imbelle, che clima sciagurato, ecco, che si sta creando in giro. Perché purtroppo la pornografia ha come humus, come dire, che l'alimenta la degradazione davvero, come dire, inqualificabile, ecco, che i costumi attualmente hanno raggiunto. Noi dobbiamo ricordare che il corpo dell'uomo e della donna è tempio dello Spirito Santo, che esiste il peccato originale, che dopo il peccato originale Adamo e Eva si sono coperti, punto. San Paolo esorta a trattare il corpo con rispetto e con pudore, la Madonna Fatima ha dato l'allarme, verranno modi che offenderanno molto Dio. Ecco, stiamo in un mare di fango che è diventato una marea montante, secondo me soltanto il Padre Eterno potrà, nei modi in cui lui sa, intervenire per creare un'inversione di tendenza. Il senso di quello che vi stavo dicendo, e con questo concludo, è che adesso è il momento dei testimoni. Se tutti fanno così, io dico no, e se sono coraggioso, non soltanto che dico no, do esattamente una controtestimonianza speculare, uguale e contraria, in modo tale che quelli che continuano a offendere gravissimamente Dio, magari senza rendersene conto, guardando qualche segno differente, abbiano almeno modo di riflettere. Ma non è che forse mi sto sbagliando e sto, come dire, esagerando in questo.